Fred era astuto e non disse agli amici che si recava a Onsley, deciso a vendere il proprio cavallo. Desiderava arrivare indirettamente alla loro vera opinione del suo valore, inconsapevole che una sincera opinione era l'ultima cosa che era probabile ricavare da tali critici eminenti. Non era una debolezza di Mr. Bembridge essere un adulatore a titolo gratuito. Non era mai stato tanto colpito in precedenza dal fatto che questo disgraziato baio era bolso in misura tale che ci voleva la più sonora bestemmia per darvene un'idea. Avete fatto un magro affare a cambiare quando siete andato da chiunque altro tranne me, Vinci. Ma sì, non avevate mai messo le gambe su un cavallo migliore di quel baio e l'avete scambiato con questa bestia. Se l'ho mandata al piccolo galoppo, va come 20 taglialegna. Non ho mai sentito un bolso peggiore in vita mia, tranne uno che era un roano. Era di Pigwill, il venditore di granaglie. Lo adoperava per tirare il calesse 7 anni fa e voleva che lo prendessi io. Ma io gli ho detto: grazie, Peg, non commercio strumenti a fiato. Ecco cosa gli ho detto. Fece il giro del paese quella battuta, ma che diavolo! Il cavallo era una trombetta in confronto a questo vostro bolso. Ma come? Avete appena detto che il suo era peggio del mio. Fece Fred, più irritabile del solito. Ho detto una panzana allora, disse Mr. Bembridge con energia. Uno non vale un penny più dell'altro. Fred spronò il cavallo e trottarono per un po'. Quando rallentarono di nuovo, Mr. Bembridge disse: Non che il roano fosse un miglior trottatore del vostro. Sono davvero soddisfatto della sua andatura, lo so, disse Fred, che aveva bisogno di sapere di essere in allegra compagnia per tirarsi su. Dico, il suo trotto è eccezionalmente netto, eh, Horrock? Mister Horrock guardò davanti a sé con un'impassibilità così completa, quasi fosse stato il ritratto di un grande maestro. Fred rinunciò all'idea di estorcergli un'opinione schietta, ma riflettendoci sopra si rese conto che il disprezzo di Bembridge e il mutismo di Oro, che erano entrambi virtualmente incoraggianti, e dimostravano che si giudicavano il cavallo migliore di quanto volessero dire. Quella sera stessa, in effetti, prima che la fiera fosse cominciata, Fred credette di intravedere un'occasione favorevole per sbarazzarsi vantaggiosamente del proprio cavallo. Un'occasione che lo indusse a congratularsi con se stesso per essere stato così brevidente da portarsi dietro le sue 80 sterline. Un giovane agricoltore, una conoscenza di Mr. Bembridge, entrò al Leone Rosso e si mise a conversare dicendo che voleva sbarazzarsi di un cavallo da caccia, che presentò subito col nome di Diamond, sottintendendo che si trattava di un personaggio noto. Quanto a sé, voleva solo un utile cavallo da sella che tirasse il carro quando si dava il caso. Era la vigilia delle nozze e stava per rinunciare ad andare a caccia. Il cavallo da caccia era nella stalla di un amico a una certa distanza. Loro signori avevano ancora tempo per vederlo prima che facesse scuro. La stalla dell'amico si dovette raggiungere attraversando una strada secondaria dove uno si sarebbe potuto facilmente avvelenare senza spendere soldi per veleni, come in qualsiasi strada sgradevole di quel periodo malsano. Fred non combatté il disgusto col brandy come i suoi amici, ma la speranza di aver finalmente visto il cavallo, che gli avrebbe consentito di far soldi, fu abbastanza tonificante da fargli percorrere la stessa strada per prima cosa il mattino successivo. Si sentiva certo che se non fosse venuto a un accordo con l'agricoltore ci sarebbe venuto Bembridge. Infatti, la sollecitazione delle circostanze, Fred pensava stava acuendo alla sua furbizia e gli stava fornendo tutta la forza costruttiva del sospetto. Bembridge aveva sparlato di Diamond in un modo a cui non sarebbe mai ricorso. Il cavallo apparteneva a un amico, se non avesse pensato di comprarlo. Chiunque guardasse l'animale, persino Horrock, era chiaramente impressionato dal suo valore. Per sfruttare al massimo l'occasione di essere in compagnia di gente simile, bisogna saper dedurre e non fare come un babbeo che prende le cose alla lettera. Il colore del cavallo era grigio pomellato e si dava il caso che Fred sapesse che l'uomo di Lord Medlicott era alla ricerca proprio di un cavallo simile. Dopo tutto il suo sparlare, Bembridge fece capire nel corso della serata, quando non c'era l'agricoltore, di aver visto cavalli peggiori venduti per 80 sterline. Naturalmente si contraddisse 20 volte, ma quando si conosce la probabile verità si possono saggiare le ammissioni di uno. E Fred non poté non metter nel conto il fatto che la sua conoscenza di un cavallo valeva qualcosa. L'agricoltore si era soffermato davanti al rispettabile ma bolso corsiero di Fred, abbastanza lungo da dare a vedere, che pensava meritasse di essere preso in considerazione e sembrava probabile che l'avrebbe preso con l'aggiunta di 25 sterline come equivalente di Diamond. In questo caso Fred, quando si sarebbe sbarazzato del suo nuovo cavallo per almeno 80 sterline, si sarebbe trovato in tasca 55 sterline come risultato della transazione e avrebbe avuto 135 sterline per pagare la cambiale. Cosicché la perdita temporaneamente subita da Mr. Garth sarebbe ammontata al massimo a 25 sterline. Quando giunse a vestirsi frettolosamente al mattino, vide così chiaramente l'importanza di non lasciarsi sfuggire questa rara occasione, che se Bembridge e Horrock lo avessero entrambi dissuaso, non si sarebbe lasciato fuorviare da un'interpretazione lineare del loro scopo. Sarebbe stato consapevole che in quelle mani capaci c'era qualcosa di diverso degli interessi di un giovane. In tema di cavalli, la sfiducia era l'unica pista giusta. Ma lo scetticismo, come sappiamo, non si può sempre applicare in modo completo, altrimenti la vita giungerebbe a un punto morto. Qualcosa dobbiamo credere fare, e comunque si chiami quel qualcosa, è virtualmente il nostro giudizio, anche se sembra servilmente assoggettato a quello altrui. Fred credeva nella bontà del suo affare e addirittura, prima che la fiera fosse cominciata, si era impossessato del frigio pomellato al prezzo del proprio vecchio cavallo e dell'aggiunta di 30 sterline. Solo 5 sterline in più di quanto si era aspettato di dovergli dare. Ma si sentiva un po' preoccupato e stanco, forse in seguito al lavorio mentale, e senza aspettare i successivi divertimenti della fiera, intraprese da solo il suo viaggio di 14 miglia, con l'intenzione di prendersela con molta calma e mantenere fresco il cavallo. Capitolo 24. Mi duole dire che solo 3 giorni dopo i favorevoli avvenimenti a Onsley, Fred Vincey era precipitato in uno stato d'animo peggiore di quanto avesse conosciuto precedentemente in vita sua. Non che fosse stato deluso riguardo al possibile compratore del suo cavallo, ma prima di poter concludere l'affare con l'uomo di Lord Medlicott, questo Diamond, in cui aveva investito la speranza di 80 sterline, senza il minimo preavviso aveva mostrato nella stalla un'energia veramente selvaggia nello scalciare. Per un pelo non aveva ucciso lo stalliere e aveva finito per azzopparsi gravemente impigliandosi con una zampa in una corda che pendeva sopra l'architrave della stalla. A ciò non si poteva porre alcun rimedio, come per la scoperta di un'indole cattiva dopo il matrimonio, di cui naturalmente i vecchi compagni erano a conoscenza prima della cerimonia. Per qualche ragione, Fred non esibì nulla della consueta capacità di reagire sotto questo colpo della mala sorte. Sapeva semplicemente di avere solo 50 sterline, che al momento non aveva alcuna possibilità di procurarsene altre e che la cambiale di 160 sterline sarebbe stata presentata di lì a 5 giorni. Anche se si fosse rivolto al padre, implorandolo di salvare Mr. Garth dalla perdita, Fred aveva la cocente sicurezza che il padre si sarebbe irosamente rifiutato di salvare Mr. Garth dalle conseguenze di ciò che avrebbe definito un incoraggiamento allo sperpero e all'inganno. Era talmente abbattuto che non gli riuscì di escogitare altro progetto che andare direttamente da Mr. Garth e comunicargli la triste verità, portando con sé le 50 sterline e mettendo almeno quella somma al sicuro dalle proprie mani. Il padre, che era al magazzino, non sapeva ancora dell'incidente. Quando ne sarebbe venuto a conoscenza, avrebbe dato in escandescenze perché quell'animale selvaggio era stato portato nella sua stalla. E prima di affrontare questa seccatura minore, Fred volle andarsene con tutto il coraggio che aveva per affrontare la maggiore. Prese il pony del padre, perché aveva deciso che dopo aver detto tutto a Mr. Garth sarebbe andato a Stone Court a confessare tutto a Mary. In effetti è probabile che se non ci fosse stata Mary e Fred non l'avesse amata, la sua coscienza si sarebbe data molto meno da fare, sia nel rimproverargli il debito, sia nello spingerla a non prendersela comoda secondo il suo modo di agire consueto, procrastinando un dovere sgradito, ma ad agire nel modo più schietto e semplice che poteva. Uomini anche molto più forti di Fred Vincey conservano metà della loro rettitudine nel pensiero della persona che amano di più. Il teatro di tutte le mie azioni è caduto, disse un personaggio dell'antichità, quando il suo più caro amico fu morto, e sono fortunati coloro che hanno un teatro in cui il pubblico chiede la loro parte migliore. Certo, sarebbe stato assai diverso per Fred a quel tempo se Mary Garth non avesse avuto un'idea ben chiara riguardo a ciò che era ammirevole in una persona. Mr. Garth non era in ufficio e Fred proseguì diretto a casa sua, che sorgeva un po' fuori città. Una casa semplice con un orto sul davanti, un edificio irregolare all'antica, per metà in legno, che prima che la città si espandesse era stata una fattoria, ma ora era circondato dai giardini privati dei cittadini. Le nostre case ci sono più care se hanno una fisionomia loro propria, come i nostri amici. La famiglia Garth, che era piuttosto numerosa perché Mary aveva 4 fratelli e una sorella, Era molto affezionata alla sua vecchia casa, i cui mobili migliori erano stati venduti da tempo. Anche a Fred piaceva, conoscendo la memoria fino al soffitto che odorava deliziosamente di mele di cotogne. E fino a quel giorno non vi era mai arrivato senza attendersi qualcosa di piacevole. Ma ora il cuore gli batteva per l'apprensione al pensiero che probabilmente avrebbe dovuto pronunciare la propria confessione davanti a Mrs. Garth, della quale aveva una soggezione assai maggiore che del marito. Non che essa fosse incline al sarcasmo e a battute impulsive come Mary. Alla sua attuale età di madre di famiglia, perlomeno Mrs. Garth non si abbandonava mai a discorsi troppo affrettati. Aveva, come diceva lei, portato il gioco in gioventù e imparato a controllarsi. Possedeva quella rara sensibilità che sa distinguere ciò che non si può cambiare e vi si sottomette senza brontolare. Adorando le virtù del marito, ben presto si era rassegnata alla sua incapacità di badare ai suoi interessi e di buon grado ne aveva subito le conseguenze. Era stata magnanima al punto di rinunciare a gloriarsi di tagliere fronzoli di bambini e non aveva mai riversato confessioni patetiche nelle orecchie delle vicine riguardo alla mancanza di prudenza di Mr. Garth e i soldi che gli avrebbe potuto avere se fosse stato come altri uomini. Perciò, queste leali vicine giunsero a considerarla o orgogliosa o eccentrica e talvolta ne parlavano ai mariti come della vostra brava Mrs. Garth. Lei, in cambio, non le risparmiava da critiche, possedendo un'istruzione migliore della maggior parte delle madri di famiglia di Middlemarch, e quale donna è senza difetto, essendo lievemente incline alla severità verso il proprio sesso, che secondo lei era fatto per essere completamente sottomesso. D'altro canto era esageratamente indulgente verso i difetti degli uomini e la si udiva spesso dire che questi erano naturali. Inoltre bisogna ammettere che Mrs. Garth si opponeva un pochino troppo a quelle cose che riteneva follie. Il passaggio da istitutrice a donna di casa aveva lasciato una traccia un po' troppo marcata nella sua coscienza e di rado dimenticava che, mentre per la grammatica e l'accento era superiore al livello delle altre donne della città, anche lei portava una normale cuffia, cucinava i pasti per la famiglia e rammendava tutti i calzini. Talvolta aveva insegnato a degli alunni in modo peripatetico, facendosi seguire in cucina con il loro libro La lavagnetta. Pensava che facesse loro bene vedere che poteva fare un'eccellente saponata mentre correggeva loro gli sbalzi senza guardare. Che una donna con le maniche rimboccate sopra i gomiti conoscesse tutto sul congiuntivo o la zona torrida. Che in breve possedesse un'istruzione e altre buone cose terminate in Sione, che valeva la pena di pronunciare con enfasi, senza essere una bambola inutile. Quando faceva delle osservazioni di questo tenore edificante, assumeva un piccolo cipiglio risoluto che tuttavia non impediva al suo volto di apparire benevolo, e le parole che le uscivano di bocca come una processione erano pronunciate con un appassionato, gradevole tono di contralto. Certo, l'esemplare Mrs. Garth aveva i suoi aspetti buffi, ma il suo carattere reggeva le sue stranezze come un vino di qualità superiore regge al gusto del cuoio. Per Fred Vincey provava un sentimento materno ed era sempre stata incline a scusarne gli errori, anche se probabilmente non avrebbe scusato Mary se si fosse fidanzata con lui, poiché per la figlia valeva quel metro di giudizio più rigoroso che applicava al proprio sesso. Ma il fatto stesso dell'indulgenza eccezionale che dimostrava verso di lui rendeva più penoso per Fred il dover ora inevitabilmente scadere davanti ai suoi occhi. E le circostanze della sua visita si rivelarono ancora più sgradevoli di quanto si fosse aspettato. Infatti, Caleb Garth era uscito presto per sovrintendere ad alcune riparazioni non lontano di lì. Mrs. Garth a certe ore si trovava sempre in cucina e quella mattina vi stava sbrigando diverse faccende contemporaneamente. Stava facendo le crostate al tavolo di pino ben ripulito posto su un lato di quella stanza ariosa. Osservava i movimenti di Sally davanti al forno, badava l'impastatrice attraverso una porta aperta e stava facendo lezione al figlio e alla figlia minori che erano seduti al tavolo di fronte a lei con i libri e le lavagnette davanti. Una tinozza e uno stenditoio all'altra estremità della cucina indicavano che si stava anche facendo il bucato con varie interruzioni. Mrs. Garth, con le maniche ripiegate sopra il gomito, intenta a manipolare abilmente la sua pasta, adoperando il matterello e dando dei pizzicotti per decorare, mentre esponeva con fervore grammaticale quali fossero le giuste idee sulla concordanza di verbi e pronomi con nomi collettivi o significanti pluralità, presentava uno spettacolo di gradevole spasso. Era il tipo dai capelli ricciuti e dalla faccia squadrata simile a Mary, ma più bella, con tratti più delicati, una pelle pallida, una figura da solida madre di famiglia e uno sguardo di eccezionale fermezza. con la cufiornata di gale bianche come la neve, ricordava quella deliziosa francese che tutti abbiamo visto al mercato col cesto sotto braccio. Guardando la madre, avreste potuto sperare che la figlia sarebbe diventata come lei, il che è un potenziale vantaggio simile a una dote, mentre la madre troppo spesso sta alle spalle della figlia come una brutta profezia. Quale io sono, tale lei lo sarà in breve. Ora, ripetiamola ancora una volta, disse Mrs. Garth, appiccicando un bignè di mele che sembrava distrarre Ben, un energico ragazzotto dalla fronte aggrottata per la dovuta attenzione alla lezione. Non senza tener presente il senso della parola in quanto portatrice di un'idea di unità o di pluralità. Ripetimi cosa significa questo, Ben. Mrs. Garth, come altri educatori più celebri, aveva i suoi antichi sentieri preferiti e in un naufragio generale della società avrebbe cercato di tenere al di sopra delle onde il suo Lindley Murray. Oh, significa bisogna pensare a quello che si vuol dire, disse Ben con aria piuttosto scontrosa. L'audio e la grammatica cosa serve? A insegnarti a parlare e a scrivere correttamente, in modo che tu possa essere capito, disse Mrs. Garth con una severa precisione. Ti piacerebbe parlare come il vecchio Job? Sì, disse Ben con decisione, è più divertente. Lui dice te vui, che è come tu vai. Ma lui dice una barca nel giardino invece di una pecora, disse Letty con aria di superiorità. Potresti pensare che volesse dire una barca dal mare. No, non è vero, a meno che non si sia stupidi, disse Ben. Come potrebbe andarci lì una barca dal mare? Queste cose fanno solo parte della pronuncia, che è la parte meno importante della grammatica, disse Mr. Garth. Quella buccia di mela è per i maiali, Ben. Se la mangi tu, io dovrei dare la tua parte di pasticcini a loro. Job deve parlare solo di cose molto semplici. Come credi che scriveresti e parleresti di qualsiasi cosa più difficile se non sapessi la grammatica meglio di lui? Useresti le parole sbagliate, metteresti le parole nel posto sbagliato, invece di farti capire dalla gente, questa ti volterebbe le spalle come una persona seccante. Allora cosa faresti? Non me ne importerebbe, smetterei di parlare, disse Ben, pensando che questa fosse una soluzione alquanto gradevole per quanto riguardava la grammatica. Capisco che ti stai stancando e dici delle stupidaggini, Ben, disse Mrs. Garth, abituata a queste argomentazioni ostruzionistiche da parte dei suoi figli maschi. Finiti i pasticcini, si spostò verso lo stenditoio e disse: Vieni qui e ripetimi la storia che ti ho raccontato mercoledì su Cincinnato. Lo so, era un agricoltore, disse Ben. Andiamo, Ben. Era un romano. Falla dire a me, disse Letty dandogli delle gomitate. Stupida, era un agricoltore romano e stava arando. Sì, ma prima di quello non è l'inizio. La gente aveva bisogno di lui, disse Letty. Bene, ma devi dire che tipo di uomo era prima, insistette Ben. Era un uomo saggio, come mio padre, e per questo la gente voleva i suoi consigli. Ed era un uomo coraggioso e sapeva combattere. E anche il mio babbo, non è vero, mamma? Adesso, Ben, lasciami raccontare la storia per ordine, come la mamma ce l'ha raccontata, disse Letty aggrottando le ciglia. Vi prego, mamma, dite a Ben di non parlare. Letty, mi vergogno di te, disse la madre strizzando le cuffie prese dalla tinozza. Quando tuo fratello ha cominciato, avresti dovuto aspettare e vedere se non riusciva a raccontare la storia. Come sembri maleducata, spingendo e facendo il cipiglio, come se volessi vincere a forza di gomitate. Cincinnato, ne sono certa, si sarebbe dispiaciuta vedere sua figlia comportarsi così. Mrs. Garth pronunciò questa frase terribile con un tono assai imponente e Letty pensò che fra la loquacità repressa e disistima generale, compresa quella dei romani, la vita era già una cosa penosa. Andiamo avanti, Ben. Beh, oh, beh, ma sì, c'era da combattere un sacco ed erano tutti testoni. E non ci riesco a raccontarla proprio come l'avete raccontata voi, ma volevano che un uomo facesse capitano e re e tutto. Dittatore, andiamo, disse Letty con atteggiamento ferito e non senza il desiderio di far pentire la madre. Molto bene, dittatore, disse Ben in tono di disprezzo, ma quella non è la parola giusta. Lui non disse a loro di scriverle sulle lavagnette. Andiamo, andiamo, Ben, non sei ignorante fino a questo punto, disse Mrs. Garth, attenta a non scherzare. Ascolta. Bussano alla porta. Letty, corri ad aprirla. Chi aveva bussato era Fred. E quando Letty disse che il padre non era ancora arrivato, ma che la madre era in cucina, Fred non ebbe alternative. Non poteva rinnegare l'abitudine di andare a trovare Mrs. Garth in cucina se per caso lei stava lavorando lì. In silenzio mise il braccio attorno al collo di Letty e l'accompagnò in cucina senza le carezze e le battute consuete. Mrs. Garth rimase sorpresa nel vedere Fred a quell'ora, ma la sorpresa non era un sentimento che era portata ad esprimere e disse soltanto, continuando tranquillamente a lavorare: Tu, Fred, così presto? Hai un aspetto proprio pallido. È accaduto qualcosa? Voglio parlare con Miss Garth, disse Fred, non ancora pronto a dire di più. E anche con voi, soggiunse dopo una breve pausa, perché non dubitava che Mrs. Garth sapesse tutto della cambiale e che in fondo dovesse parlare alla sua presenza, anche se non solamente con lei. Caleb rientrerà fra pochi minuti, disse Mrs. Garth, che si immaginò un qualche dissenso fra Fred e il padre. Certo, non tarderà molto, perché ha un qualche lavoro a tavolino che deve terminare questa mattina. Ti dispiace restare con me mentre finisco qui le mie faccende? Ma non dobbiamo continuare su Cincinnato, vero? Chiese Ben, che aveva preso il frustino dalle mani di Fred e ne assaggiava l'efficacia sul gaccio. No, uscite adesso! Ma metti giù quel frustino! Che cattivo frustare il povero vecchio Turtoise! Ti prego, prendi il frustino, Fred! Andiamo, vecchio, dammelo! Fece Fred allungando la mano. Mi lascerai cavalcare il tuo cavallo oggi? Chiese Ben, restituendogli il frustino con l'aria di non essere obbligato a farlo. Oggi no, un'altra volta. Non ho il mio cavallo. Vedrai Mary oggi? Sì, penso di sì, disse Fred con una fitta di dispiacere. Dille di venire a casa presto a giocare al gioco dei pegni e a divertirsi. Basta, basta, Ben, corri via, disse Mrs. Garth, notando che Fred era seccato. Letty e Ben sono i vostri unici scolari ora, chiese Fred quando i bambini se ne furono andati e fu necessario dire qualcosa per far passare il tempo. Non era ancora certo se fosse bene attendere Mr. Garth oppure approfittare di una buona occasione, conversando, per confessare la cosa a Mrs. Garth stessa, darle il denaro e andarsene. Una, solo una Fanny Eckbuck che arriva alle 11:30. Adesso non ho delle grandi entrate, disse Mrs. Garth sorridendo. Adesso sono in fase di stanca quanto ad alunni, ma ho risparmiato la mia sommetta per darla in premio ad Alfred. Ho 92 sterline. Adesso può andare da Mr. Hanmer, ha proprio l'età giusta. Questo non era un buon incitamento a rivelare la notizia che Mrs. Garth era sull'orlo di perdere 92 sterline passa. Fred rimase muto. I giovanotti che vanno all'università sono un po' più costosi, continuò con aria innocente Mrs. Garth, tirando fuori la bordura dell'orlo di una cuffia. E Caleb pensa che Alfred diventerà un bravo ingegnere. Vuole dare al ragazzo una buona occasione. Eccolo, lo sento entrare. Andremo da lui in salotto, vuoi? Quando entrarono nel salotto, Caleb aveva messo giù il cappello ed era seduto al suo tavolo. Cosa c'è, Fred, ragazzo mio? Egli chiese con un tono di garbata sorpresa, reggendo la penna non ancora immersa nel calamaio. Sei qui presto? Ma non vedendo la consueta espressione di allegro saluto sul volto di Fred, immediatamente aggiunse: C'è qualcosa a casa? Qualcosa che non va? Sì, Mr. Garth, sono venuta a dirvi una cosa che temo vi spingerà a farvi una cattiva opinione di me. Sono venuto a dire a voi e a Mrs. Garth che non sono in grado di mantenere la parola. Sono stato sfortunato. Ho solo queste 50 sterline per pagare le 160. Mentre parlava, Fred aveva estratto le banconote e le aveva posate sul tavolo davanti a Mr. Garth. Si era sfogato subito esponendo i fatti puri e semplici, sentendosi oppresso da un'infelicità infantile e privo di risorse verbali. Mrs. Garth era ammutolita dallo stupore e guardò il marito in attesa di una spiegazione. Caleb arrossì e dopo una breve pausa disse: Oh, non te l'ho detto, Susan. Ho firmato una cambiale di Fred per garanzia. Era di 160 sterline. Mi aveva assicurato che poteva pagarla da solo. Sul volto di Mrs. Garth apparve un evidente cambiamento, ma fu come il cambiamento sotto una superficie d'acqua, che resta liscia. Essa puntò gli occhi su Fred dicendo: Suppongo che abbia chiesto a tuo padre il resto dei soldi e te li abbia rifiutati. No, disse Fred mordendosi il labbro e parlando con maggiore difficoltà, ma so che sarà inutile chiederglieli. E a men che non servisse, non vorrei che il nome di Mr. Garth fosse fatto a proposito di questa faccenda. La cosa viene in un momento disgraziato, disse Caleb, col suo tono esitante, abbassando lo sguardo verso le banconote e tastando nervosamente la carta. Il Natale alle porte, al momento sono piuttosto corto di denaro, capisci? Devo tagliare tutto come un sarto che ha poca stoffa a disposizione. Cosa possiamo fare, Susan? Avrò bisogno di quello che ho in banca fino all'ultimo centesimo. Sono 110 sterline, il diavolo le prenda. Dovrò darti le 92 sterline che avevo messo da parte per fare il regalo ad Alfred, disse Mrs. Garth in tono grave e deciso, per quanto un orecchio fine avrebbe potuto cogliere un leggero tremito in alcune delle parole. E non ho dubbi che Mary abbia risparmiato ormai 20 sterline dal suo stipendio. Me le anticiperà. Mrs. Garth non aveva più rivolto lo sguardo a Fred e non stava minimamente pensando a quali parole dovesse usare per ferirlo meglio. Da quella donna eccentrica che era, al momento era impegnata a considerarsi da farsi e non immaginava che questo scopo si potesse raggiungere meglio con considerazioni amare o scoppi d'ira. Ma per la prima volta aveva fatto sentire a Fred l'asprezza del rimorso, cosa abbastanza curiosa. In precedenza il suo dolore era derivato quasi interamente dalla sensazione di dover apparire una persona disonorevole e scadere agli occhi dei Garth. Non aveva pensato al disagio e al possibile male che il venir meno la propria parola potesse provocare ad essi, perché immaginare i bisogni degli altri non è un'operazione mentale comune nei giovanotti fiduciosi. In effetti, siamo per la maggior parte allevati con l'idea che il motivo principale per non fare una cosa sbagliata sia qualcosa di indipendente dalle persone che subirebbero il torto. In questo momento, egli si vide d'un tratto come un misero mascalzone che derubava due donne dei loro risparmi.